Buonasera, buon lunedì, ben ritrovate, ben ritrovati sulle libere frequenze di Radio Blackout. E, insomma, in mia assenza fisicamente temporanea dai microfoni degli studi di Via Cecchi 21/A, la mancanza di ormone, soprattutto il vostro bisogno di ormone così international, spinge i vostri DJ preferiti e le vostre DJS preferite a organizzare questa rubrica, un almanacco settimanale delle parole più utili nelle lingue, insomma, la qualunque che vi potreste magari trovare a dover usare per questo o quest'altro posto nel mondo, per insomma fare le cose che malormone vi manda a fare. E allora questa settimana, insomma, il tema della puntata malormonica è il pelo, tema già affrontato insomma in altri momenti di malormone, ma sul quale ovviamente ci teniamo a tornare. Io innanzitutto mando un bel bacio con la lingua ai miei compagnucci, compagnucce di trasmissione, insomma vorrei poter condividere l'aria salubre degli studi di Via Cecchi con voi, ma insomma mi tocca condividere l'insalubre rete, come dire, etere, ma insomma qua dobbiamo un po' quagliare, nel senso che per parlare di pelo ci sono tanti e tante come dire, terminologie. Cominciamo dalla lingua più international, ovvero l'inglese. In inglese, insomma, come molti di voi sapranno, si usa la riferirsi al peletto lì sopra tra le gambe come the bush, il cespuglietto. E visto che è proprio un cespuglietto, in inglese si dice anche che il cespuglio lo puoi trim, you can trim, ovvero potare. Da qua probabilmente qualcuno si riferiva alle aiuole rasate, come magari potreste forse purtroppo per voi ricordare. Ma come potete sentire di sottofondo e come cantava Amanda Palmer, nostra grande amata perlomeno da me e DJ Accappatoio, Amanda Palmer appunto ci canta che il boschetto ha in realtà la forma della mappa della Tasmania, questo stato abbastanza sconosciuto dove oltre ad esserci di avoletti, insomma, ha questa tipica formetta a triangolo. Come dicevamo, l'inglese ci racconta che appunto i peli tutti si chiamano hair, come il musical famoso degli anni 70 che parlava di pacifismo, da però non confondere con i capelli, hair, diciamo che più in generale, se ci si vuole riferire a un qualche tipo di come dire, morbidezza, lanuginaggine, si può parlare di fur, come peluria o anche come insomma pelliccia, da cui furry, che è una parola secondo me bellissima, che sa proprio di morbidoso, peloso, lanuginoso, da dormirci, da come dire, da metterci proprio la faccia dentro. Da ricordare, sempre per quanto riguarda la lingua inglese, che stranamente la parola nappy con la Y vuol dire peloso, come lanuginoso appunto, ma anche pannolino, chissà perché. E se, insomma, tornando alle questioni di cultura invece, l'America ci regala la nascita di quella bellissima sottocultura, quella più morbidosa e pelosa che ci sia, ovvero quella degli orsi o i bear, da cui insomma si usa lo stesso termine anche in inglese, più o meno riconosciuto ovunque per indicare frocetti con una certa dose di pelo sul corpo. La nuova moda, dicevo, dell'East Coast è quella di rivalutare altri peli, in particolare si parla di quelli dei peli delle femmine, ovvero i peli dell'ascella. L'ultimo grido in fatto di estetica pelosa è infatti la tinta a colori sgargianti da sfoggiare a braccia alzate. E come insomma potrete immaginare, visto che insomma si tratta di America, c'è anche un movimento che si fa chiamare Free Your Pits, libera le tue ascelle, che rivendica la mostra di tali peli. Se volete farlo a casa, di colorarvi le ascelle, però seguite bene i suggerimenti o rischiate brutte ustioni chimiche da decolorante, che sinceramente non vi consiglio. In ogni caso trovo molto belli e interessanti questi peli. Cambiamo poi, diciamo, ambito, ambiente e anche lingua, per andare alle lingue lusofone, ovvero i posti dove si parla il portoghese. E se la pelliccia si chiama pele, e che non è da confondere con Pelé, è anche perché, se proprio dobbiamo dirla tutta, in Brasile non è che proprio si parli tanto di pelo, anzi proprio non si porta il pelo. È una cosa brutta il pelo lì in quel posto, insomma nelle spiagge di Bahia, che non si dice e che soprattutto appunto non si porta. Insomma si conosce, insomma si sa di gente, o me lo so io perché insomma le so le cose, che andando dall'estetista per una normale spuntatina nel cespuglietto è uscita completamente sbarbata, a sorpresa, insomma, stram, via tutto, perché certe robe proprio non le vogliono vedere, anche se gli chiedi per favore di tenertela, il tuo cespuglietto, no, quella roba lì è brutta. E il paese carioca, insomma, è uno dei peggiori nemici per gli amanti del pelo. Da lì, insomma, non è che sto a ricordarvelo tanto, ma la famosa ceretta brasiliana è proprio quella roba lì, e non esclude né un lato né l'altro dello spettro dei generi. Nelle femminucce, nei maschietti sono aditi a portare peletti. Veloce, come dire, sopralluogo nelle parti dove si parla spagnolo, ci dà un po', come dire, la sensazione della confondevolezza delle lingue latine. Se cabello sta per pelo, pelo vuol dire capello. Confusi, l'importante è mostrarlo, soprattutto se siete nelle spiagge andaluse. E come dicevo prima, c'è sempre questo riferimento agli orsetti. Nella penisola iberica si chiama oso. E, insomma, vi auguro di trovare tutto il pelo cabello che state cercando e di non spezzare il pelo capello in quattro. Concludiamo questa nostra esplorazione nelle giungle, diciamo così, più umidicce, passando dal paese, insomma, subito di fianco a noi, ovvero la Francia. E beh, a parte la sfiga di avere gente che vota Marine Le Pen, le nostre cugine d'oltrampe, intendo quelle femministe simpatiche, non le altre, hanno una forte cultura froce delle femme, o infero, delle femmine effeminate, delle donne che costruiscono, come dire, la propria immagine attraverso tacchi lustrini, senza dimenticare il radicalismo frocio e femminista. Insomma, chi si mette lo smalto con la consapevolezza di voler spaccare la faccia ai macisti. E insomma, io non posso che apprezzare questa scelta un po', diciamo così, da cagne di alcune lesbo femministe d'oltralpe, appunto, ma in particolare la cosa più in nei posti, anche nelle occupazioni queer, lesbo, femministe, eccetera, francesi, è quella di vestirsi e toccarsi di tutto, appunto, senza però cedere alla tortura della ceretta, quindi sfoggiando un bel tappetino sugli stinchi che protegge dal freddo inverno parigino e fa risaltare bene il tacco 12, come dire «Je fais ce que je veux avec mes cheveux». Qui da DJ Vorrei International direi che per quest'oggi abbiamo fatto una piccola panoramica. Spero che, insomma, la mancanza che io sento nei vostri confronti sia debitamente compensata da quei pelosetti che stanno dall'altro lato dei microfoni negli studi di Via Cecchi a Torino. Un saluto in tutte le lingue e con tutte le lingue del mondo, e noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!